Te penso ma quasi mi fermo. Scrivo, ti cerco da sempre, ti trovo davvero arrabbiante, arrabbiante. Sensi, sensi, sensi che si accendono violenti, lenti, lenti e si rincorrono feroci persi nelle chat online, senza fili e fuori dalla rete mai. Padrone dei miei sensi, facciamo sesso adesso in casa e solo in campo, in senso unico con il tuo mouse stop. Leggo il tuo nuovo messaggio, sei fuori città fino a maggio. Forse potremo incontrarci e allora davvero toccarci, toccarci. Sensi, sensi, sensi che si accendono violenti, lenti, lenti e sì, ti battono feroci persi nelle chat online, senza fili e fuori dalla rete mai. Padrone dei miei sensi, facciamo adesso sesso in casa e solo in camp, in seguimi con il tuo mouse, the master of the senses. Padrone dei miei sensi, facciamo adesso sesso in casa e solo in camp, in seguimi con tuo mouse, the master of the senses, padrone dei miei sensi, facciamo adesso sesso in casa, solo in camp, inseguimi con il tuo mouse, the master of the senses, padrone dei miei sensi, facciamo adesso master of the senses, padrone dei miei sensi, facciamo